Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Il concetto di cui vi parliamo questa sera vuole essere in qualche modo l'elemento che chiarisce una volta per tutte il concetto di terroir. Di terroir si sente spesse volte parlare e viene spesse volte, come dire, confuso con il concetto di terra. La terra è un elemento, come dire, fisico, che cambia naturalmente di zona in zona, ma non è certamente il terroir. Il terroir è una cosa un pochettino più complicata e complessa, perché è un concetto, non è un elemento, come dire, palpabile, non è un elemento materiale. Il terroir è praticamente invece quell'insieme di concetti che legano in qualche modo un'identità precisa che si va a formare tra la terra, l'ambiente e il vitigno. A questo poi naturalmente dobbiamo aggiungersi anche il lavoro dell'uomo, l'uomo con le sue interpretazioni, con il suo modo di agire, con il suo modo di coltivare, che viene quindi a creare un aspetto territoriale, un ambito territoriale molto molto ristretto e soprattutto legato ad un vitigno. Non esiste quindi un terroir che possa in qualche modo appartenere a diverse tipi di viticolture. Quello che si viene a creare è proprio l'interazione, lo stretto legame che viene a crearsi tra il terreno, inteso proprio come sostanza minerale che abbiamo al di sotto dei piedi, ma anche tutto quello che c'è sopra la terra, e quindi il clima, le condizioni ambientali, le condizioni climatiche che determinano poi il diverso modo di crescere di una pianta, il tipo di pianta che io metto su questo territorio, la sua varietà, ma anche come la allevo questa pianta, come gli faccio prendere aria, come gli faccio prendere il sole. E naturalmente poi, una volta che io ho ottenuto il vino, come trasformo quest'uva in vino. È quindi un sistema molto complesso, molto molto molto complicato, di identificare qui una zona per, non tanto per l'aspetto che ha ambientale, ma quello che risulta poi alla fine di tutto questo lavoro, praticamente tra la terra, il clima, la specie vegetale e l'uomo, si trasforma appunto in un liquido, in una bevanda che noi mettiamo in una bottiglia, gli mettiamo un nome e lo affidiamo al mercato affinché appunto il consumatore possa bere, capire e apprezzare questo vino. Quando quindi noi beviamo un vino reale, un vino che è il risultato di un'interazione appunto di terroir, di quando appunto tutti questi elementi lavorano assieme, ecco che abbiamo un vino unico, un vino irripetibile, perché è un vino appunto prodotto da queste condizioni che sono notoriamente sempre diverse l'una dall'altra. Cambia la giacitura del vigneto, può essere esposto a destra o a sud, avere un'inclinazione più o meno alta, e quindi sono tutti elementi che praticamente rendono questo terreno del tutto irripetibile in altre zone. Il clima che si viene a creare in questo particolare ambiente è del tutto particolare e sarà influenzato dalle correnti che vengono da nord piuttosto di quelle che vengono dal mare, oppure di quelle che arrivano dalle zone lacustri. Insomma, si creano in qualche modo tutti dei climi molto, molto particolari legati all'ambiente nel quale siamo, naturalmente al ciclo della stagione, al ciclo che ogni anno naturalmente ripete sempre delle cose diverse. Cioè tutti gli anni c'è una primavera, c'è un'estate, un autunno, ma ogni stagione è sempre diversa da quella precedente. Abbiamo quindi sempre degli elementi che ci caratterizzano l'annata per determinate questioni. Vuoi perché una volta piove nel momento giusto, ma anche perché piove nel momento sbagliato, o così via. Quindi abbiamo sempre qualche cosa di particolare. Poi questo ambiente tende poi ad esprimersi con un vigneto, ecco che allora io scelgo il portainnesto che lavorerà a contatto con le radici. Allora ci sono radici che tenderanno a stare in superficie, radici che invece tenderanno ad andare in profondità. Devo in qualche modo costruire il mio vigneto affinché lui riesca a catturare dal terreno tutti gli elementi di cui ha necessità, vale a dire quindi le sostanze minerali e l'acqua. l'acqua che sappiamo che in superficie c'è e non c'è a seconda delle piogge, mentre invece sappiamo che in profondità è più presente, più costante, è sempre a disposizione. E poi il modo nel quale io oriento il mio vigneto, gli faccio prendere più tanto solo il mattino piuttosto che il pomeriggio. Diverso è quindi il funzionamento della pianta, perché appunto è un conto avere un vigneto che viene subito arieggiato e scaldato al mattino, piuttosto di un vigneto che invece tende a scaldarsi più tardi e ad avere una maggior quantità di luce nel tardo pomeriggio verso il tramonto. Quando io poi ho coltivato queste mie uve e me le sono portate in cantina, naturalmente le devo vinificare, seguendo in qualche modo quali sono i concetti, i modi di vinificare che sono tradizionali di quell'area, di quella zona, perché in qualche modo nel corso del tempo si è capito che quello è il miglior modo per riuscire ad ottenere un vino che sappia in qualche modo mettere in luce tutto quanto è avvenuto prima. Quindi un'enologia molto rispettosa della materia prima che porto in cantina, senza artifici, senza congegni, senza trucchi soprattutto. Diffidate sempre di quelli che dicono che poi il vino comunque si fa in cantina, perché vuol dire che hanno uno scarso apprezzamento per tutto ciò che invece avviene prima. Allora ecco che vogliamo parlare di vini che in qualche modo riescano a restituire l'identità di un territorio, l'identità di un'area, e quindi un'identità unica, perché appunto prodotta da questi sistemi, da questo sistema così esclusivo, particolare, così complicato, da dare appunto dei vini sempre molto molto precisi, molto forti, con un'identità molto, molto particolare. Noi questa sera abbiamo quattro esempi, proprio per farvi capire come questi territori, questi ambienti riescono a dare un'identità molto, molto, molto precisa. E allora cominciamo a parlare proprio di questo primo vino, perché è un vino molto particolare, un vino che nasce in una terra molto difficile, molto complicata, con un vitigno altrettanto difficile, è il Pinot Nero. Il Pinot Nero è un vitigno originario della Borgogna, che si è naturalmente installato e selezionato in quest'area, caratterizzata da suoli estremamente calcarei con tutta un'esposizione verso sud-est. Quindi sono terreni molto, molto, molto ricchi, che danno una grande carica minerale, ma naturalmente sono terreni pochissimo fertili, terreni dove praticamente non crescerebbe nulla, null'altro che appunto una vite che riesca ad andare a recuperare gli elementi di cui ha bisogno in profondità. Quindi il primo elemento che già in qualche modo caratterizza un luogo da viticoltura è appunto la sua povertà, il suo essere estremamente parco nel produrre. Se una pianta di vite vuole produrre uva di buona qualità, ne deve produrre poca, perché appunto poche e limitate sono le sue capacità di sintetizzare tutti quegli elementi che poi costituiranno la qualità all'interno dei grappoli. Allora ecco che queste viticolture nascono su suoli molto molto molto poveri, poco fertili, con poco humus, con poca materia organica, ma soltanto materia minerale. Derivano quasi sempre dal disfacimento naturale delle rocce, e che quindi piano piano con l'andamento climatico delle piogge, del freddo, del ghiaccio, eccetera, eccetera, questa roccia piano piano si sgretola e dà vita appunto a questi terreni che sono particolarmente ricchi. Ecco, quindi il Pinot Nero, che è nato e cresciuto in un ambiente così difficile, così particolare, riesce a comunque ad esprimere la propria personalità soltanto se si vanno a trovare degli ambienti che siano più o meno simili a questi, che abbiano in qualche modo qualche elemento in comune con il suo carattere originario. Questo carattere originario è stato trovato in Alto Adige, perché è una valle protetta dai venti freddi, perché è una zona montuosa, ma tutto sommato ha queste montagne che la proteggono dai venti più freddi, seguono invece queste correnti più tiepide che salgono dalla pianura padana, che quindi danno condizioni ambientali ottimali, nel senso che abbiamo molto caldo durante la giornata, in modo da favorire la maturazione della pianta, ma anche delle notti abbastanza fredde, in modo che la pianta conservi praticamente la sua aromaticità. Le piante deve avere appunto questo raffreddamento notturno per fare in modo che la sua aromaticità non venga bruciata dall'eccessivo calore. Siamo praticamente su dei territori che si sono formati dal disfacimento della roccia dolomitica delle montagne sovrastanti. Quindi abbiamo, come dire, un terreno estremamente magro, estremamente povero, proprio appunto l'ideale per questo tipo di vitigno. Ma c'è un ambiente che lo rende appunto unico, perché è questa sorta di grande terrazza che dà proprio sulla valle. Non siamo quindi sul fondo valle, ma siamo su questo gran terrazzamento che viene chiamato Mazzon. Mazzon è nel comune di Ora, quindi siamo all'inizio, diciamo così, del sud Tirolo, e sulla destra, se noi saliamo dall'autostrada, vediamo benissimo che ad un certo punto, da questa montagna molto molto molto ripide, si apre questa sorta di grande terrazzo. La collina piano piano si spiana e guarda decisamente verso ovest, verso il tramonto. Abbiamo quindi delle piante che cominciano la loro giornata piuttosto fredde, piuttosto fresche, con un pochettino di brina ancora, e poi il sole che si alza comincia a scaldare queste vigne, ma questa luce e questo calore perdureranno per tutta la giornata, fino a tardi, fin quando appunto il sole tramonterà dietro la catena montuosa opposta a quella dalla quale è salito. Questo territorio così ricco di minerale, appunto di disfacimento di questa dolomia, che quindi ha creato questo suolo estremamente ricco, estremamente minerale, molto molto forte, un pochettino ghiaioso, quindi con un buon drenaggio, la pioggia tende ad abbassarsi molto nel suolo, sono la condizione ideale per il pino nero. Il pino nero, che ha appunto bisogno di queste condizioni, ha trovato in questo areale un suo luogo di eccellenza, un suo luogo di specializzazione. Difatti tutte le vigne che ci sono a Mazzon sono appunto create con il pino nero. Quindi il pino nero di Mazzon pian piano è diventato, come dire, l'emblema, l'elemento di grande qualità di questa terra, di questo luogo. Ecco, io vi voglio far proprio assaggiare questo pino nero, che è una riserva del 2006, ed è prodotto da Rottensteiner. È un'azienda che ha diversi ettari su questo bel terrazzo, di questa questa terrazza panoramica sulla valle dell'Adige, molto molto bella. Ecco, vogliamo appunto capire come questo territorio, questo ambiente, questo clima e queste persone riescono in qualche modo a restituire al vino un'identità molto molto precisa, molto netta, irripetibile altrove, proprio perché uniche sono le condizioni nelle quali viene coltivato e vinificato. Quindi puoi partire con questo.